Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatori. Questa settimana io vi devo dare una notizia, cari ascoltatori attenti a noi due, ma lo avrete capito se avete sentito anche la rassegna stampa prima, condotta impareggiabilmente da un conduttore che però non è, ecco, settimana non sarà qui neanche insieme a me, Alessandro Milan. E io sono il primo, cari ascoltatori, insieme a voi, a essere per questo disperato. Lacrimuccia no, ma per dire, Alessandro Milan, fatti la tua bella settimana di vacanza, però io vi volevo avvisare, cari ascoltatori, e quindi attenti a noi due, questa settimana è condotta, ohimè, non all'altezza solo da me, ma comunque poi tornerà Alessandro Milan. E allora inizio come sempre con i santi del giorno, per essere chiari. E oggi è un santo di quelli che gli italiani, insomma, hanno un grande seguito, tra gli italiani ha un grande seguito, soprattutto a Padova, Sant'Antonio da Padova. È un francescano portoghese, ma in realtà francescano, diventa il primo provinciale del nord Italia, muore a Padova già in onore di santità nel 1231, e quindi molti seguaci, un santo molto popolare. E i soliti santi dal nome strano oggi, ci sono parecchi anche oggi, per esempio Sant'Aventino, sì, c'è il colle a Roma, ma c'è anche un santo, Sant'Aventino, un eremita ucciso nei Pirenei dai Mori, quando furono poi fermati dopo Poitiers in Francia da Carlo Martello, oppure San Ceteo, vescovo abruzzese, lui ucciso e martirizzato dai Longobardi invece. Poi Sant'Eulogio, vescovo di Alessandria d'Egitto, ne sappiamo molto poco, tranne che era un rettore molto importante nella storia della Chiesa. Oppure San Fantilla di Cordova, anch'essa martire uccisa dai Mori. Poi San Ramberto, San Salmodio, San Trifilio di Leucosia, cioè Nicosia, Cipro. Come vedete, insomma, non proprio santi popolarissimi o dai nomi molto diffusi, perché oggi il punto di riferimento è appunto Sant'Antonio da Padova. Nella giornata di oggi, che cosa si nella storia è venuto di importante? Beh, nel 313 dopo Cristo l'editto di Milano di Costantino fu il primo riconoscimento verso il cristianesimo, che poi divenne sempre lo stesso imperatore religione di Stato. E nel 1956 vinceva oggi per la prima volta la Coppa dei Campioni il Real Madrid. E perché ho voluto finire nei ricordi storici della giornata di oggi con questa cosa del Real Madrid? Perché vi dico subito i due temi su cui intendo chiedervi, se volete, se potete chiamarci all'800 24 0024 per darci la vostra opinione. Sapete che per gli sms 349 238 6666. E uno di questi due temi riguarda esattamente il calcio. Sì, oggi è l'anniversario appunto della prima Coppa dei Campioni del Real Madrid, però sapete che sono in corso gli europei di calcio in Francia. E devo dire, lo sapete anche se non siete tifosi di calcio, viste le immagini che spero abbiano scosso tutti, immagini per quello che mi riguarda terrificanti, degli scontri tra hooligans dei tifosi. Ecco, le abbiamo in sottofondo, della Gran Bretagna e della Russia, che sono venuti sabato scorso. Allora, io, la mia domanda è questa: sui giornali di oggi troverete che l'UEFA sta ponendo come ipotesi di sanzione disciplinare quella dell'esclusione delle due nazionali dagli europei. Io la penso così, ma penso che non andrebbe minacciata. Io penso che, come in alcuni paesi sono stati spiantati gli hooligan, penso alla Gran Bretagna della Thatcher, dove erano il problema più grave di tutta Europa, perché si usati il pugno d'acciaio all'epoca in quel paese, talmente colpendo le società che le società per prime hanno capito che non si poteva più tollerare il fenomeno degli hooligans, che infatti in quei paesi a livello nazionale non c'è, tranne il fatto che quando si va all'estero per le nazionali o per i club nelle coppe, devastazione, lo sappiamo, è avvenuto anche in Italia a Roma con i tifosi olandesi del Feyenoord. La mia idea è che bisogna fare le stesse cose come sanzioni a livello internazionale, quindi fuori, finché non sarà così queste cose si ripeteranno, a parte il fatto che io sono senza parole per l'apparato di sicurezza francese, ma come, con tutto quello che è successo, il Bataclan, eccetera, eccetera, appaiono del tutto impotenti, cioè non riuscivano a prevedere che c'erano fenomeni di questo tipo? Ma come, chiunque segue il calcio internazionale sa che questo è il maggior problema. Però vi chiedo, dateci la vostra opinione su questo, e sempre sulla sicurezza, dateci anche la vostra opinione su un tema in particolare collegato alla tragedia, alla strage avvenuta a Orlando ieri negli Stati Uniti, nella notte tra sabato e domenica. Io ho un'impressione, voglio sapere se la condividete o meno, cioè ho l'impressione, vedendo sui social italiani, che tra il fatto che è avvenuto negli Stati Uniti invece che in Europa e il fatto che è avvenuto in un locale per gay, la strage di Orlando susciti qui molto meno empatia, sdegno di quanto non sia accaduto con la strage del Bataclan a Parigi. È vero secondo voi? E se è vero, perché? Ecco, questi sono i due temi su cui intervenite al telefono, dateci la vostra opinione, fuori Francia e Gran Bretagna dagli europei, e poi bah, la strage di Orlando, tutto sommato ci scalda meno del Bataclan. Ecco, io ho l'impressione che sia un po' così, a dirvi la verità. È la strage più grave, l'avete letto, negli Stati Uniti, riconducibile a ISIS. Certo, stiamo parlando sempre di figlio e in prima persona, come Armatin, il responsabile, all'attenzione delle forze di sicurezza americane da tempo, in quanto sospettabile di simpatie più o meno certe verso l'ISIS e i qaedisti prima, però colpiscono. Su questo io vi segnalo la mia opinione, è che il miglior pezzo, il più sintetico e il più chiaro, è quello dell'editoriale del direttore della Stampa, Maurizio Molinari, e ora gli ospiti della giornata. In questi 5 giorni, lo sapete, sono i 5 giorni decisivi che ci avvicinano al ballottaggio in alcune migliaia di comuni, naturalmente soprattutto in alcune grandi città, ed è lì che ci sarà il significato politico, l'impatto maggiore. Quindi abbiamo chiesto in questi giorni, noi non ripeteremo ballottaggi perché per la par condicio non avremo il tempo di mettere i candidati uno contro l'altro, però come vedete il ballottaggi è pieno in televisione, è proprio veramente pieno tra Sky, non Sky e tutte le altre reti, e quindi ogni giorno chiamiamo un osservatore terzo, un giornalista non schierato, per far commentare a lui e chiedergli qualche domanda su come stanno andando le cose a suo giudizio nei giorni decisivi di avvicinamento al ballottaggio. Allora cominciamo oggi da Torino, e prima di presentarvi l'ospite sentiamo un passaggio che riguarda esattamente uno dei temi su cui è diventato incandescente il confronto, cioè quello di che cosa accade a Torino se Chiara Appendino, la candidata dei 5 Stelle, vince contro il sindaco uscente Piero Fassino in relazione a un finanziamento di 250 milioni per il progetto della Città della Salute. Il punto vero è se i romani vogliono o non vogliono le Olimpiadi, la metro C, vogliono o non vogliono lo stadio della Roma, se i torinesi vogliono o non vogliono portare avanti il programma del Parco della Salute, se vogliono tornare al 2011 e quindi bloccare tutto come propone l'Appendino. Quello che mi stupisce invece, onestamente, è leggere delle dichiarazioni come quelle fatte oggi dalla Boschi, che dicono che se il Movimento 5 Stelle dovesse governare questa città non arriveranno i finanziamenti. Mi pare che il Partito Democratico tratti i soldi dei cittadini come se fossero del partito e non dei cittadini, e questo devo dire che un po' mi preoccupa, ma per il rispetto che ha il Partito Democratico per la popolazione italiana che paga le tasse e contribuisce. Ecco, avete sentito le parole di Maria Elena Boschi, ministro delle riforme della pubblica amministrazione, e la risposta di Chiara Appendino, candidata 5 Stelle a Torino. E l'Appendino ha detto, bene, allora il governo qui ci sta dicendo che se vinciamo noi spariscono 250 milioni di finanziamento al progetto Città della Salute. La risposta del Boschi e del candidato PD è non è vero, dietro c'è una storia che solo chi è di Torino e ha seguito nel tempo può capire meglio, cioè questo è uno dei principali progetti a breve della città. Però ci sono due versioni. Nella versione 2011, che è quella sostenuta all'epoca da Chiamparino, quindi dal PD, e oggi dall'Appendino, era una versione, diciamo, più contenuta di investimento per questo progetto di Città della Salute, e c'erano solo i finanziamenti pubblici, e l'Appendino questo nel suo programma ha messo. Poi la versione successiva del sindaco uscente attuale invece da 250 milioni passa a 700 milioni e chiede soldi di coinvestimento ai privati. E su questo i 5 Stelle hanno dubbi. Quindi io lo dico solo per chiarire l'informazione. Ma per capire meglio come stanno le cose dal suo punto di vista, appunto, un osservatore terzo e un collega di riferimento da tempo per chi è torinese alla Stampa, è Cesare Martinetti, ed è anche il direttore di una cosa che a me piace molto, Origami. Questo, secondo me, non innovativo, cosa che capita raramente, supplemento allegato alla stampa settimanale, che anche dal punto di vista grafico, secondo me, sconvolge un po' la tradizione un po' imbalsita dei giornali. Cesare Martinetti, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e grazie a te per il giudizio su Origami, anche se devo correggerti, perché non è un supplemento della stampa, ma è un settimanale che ha una sua vita. Hai ragione. Purtroppo la mia sabauda, cosa c'entra te, proprio stupidamente, ho commesso un errore grave che non ti riconosce. No, lo rimediamo. Allora, Origami, dovete chiedere Origami. Dici, dal tuo punto di vista, questi ultimi giorni? Io direi che il calore di questo scontro testimonia quello che io ho pensato subito, e cioè che il voto di Torino è veramente un voto simbolico e persino paradigmatico dello scontro. Il fatto che il governo entri così fortemente dentro una questione torinese, sulla quale poi alla fine Piero Fassino con grande buonsenso ha raddrizzato un po', ha detto che toccherà poi al sindaco dei torinesi rapportarsi col governo e quindi, come dire, ha un po' calmato le acque, io direi che testimonia per l'appunto questo, che a Torino c'è uno scontro che è lo scontro paradigmatico. Da una parte c'è il PD e diciamo così l'idea di centrosinistra, di governo, di quella formazione lì, dall'altra c'è il Movimento 5 Stelle che potrebbe andare in una situazione del genere al ballottaggio per il governo nazionale, e bisogna vedere che cosa raccoglie il Movimento 5 Stelle da tra tutti gli altri, destra e sinistra. Io credo che possa raccogliere sia da destra che da sinistra, e quindi io credo che sia veramente uno scontro sul limite. E la tua opinione è che la sensazione, questa cosa descritta da molti quotidiani sul fatto che Torino ci sia un po' come a Roma, ma per ragioni diverse, non c'è stata mafia capitale, quindi non si tratta di evidenza giudiziaria, però che sia il grande confronto in cui c'è più che altrove tutti da una parte contro un sistema di potere che dura da 3-4 decenni, a prescindere anche dalla condivisione del progetto dei 5 Stelle. Chi la racconta così ha ragione o no? È così, secondo me è esattamente così, anche per ragioni emotive, anche per ragioni, come dire, sono quelle ragioni, cioè quel vento di che abbiamo chiamato, per semplificare, ma ci capiamo, di antipolitica e di antisistema che attraversa un po' tutti. Io ho visto l'analisi dei flussi, dei voti più interessanti, l'ha fatta il CISE, mi pare che si chiami, il Centro Studi di Flussi Elettorali della LUIS, in cui si vede che soltanto il 42% degli elettori che avevano votato per Fassino nel 2011 hanno rivotato per lui, e ben il 34 su 100 hanno votato per l'Appendino e gli altri si sono astenuti. Quindi, come dire, non c'è mafia capitale, c'è un'amministrazione che di cui tutti quanti hanno un parere tutto sommato positivo, compreso paradossalmente gli avversari di Fassino, sia il leghista che il rappresentante di Forza Italia. C'è un sistema che è rassicurante, che grosso modo funziona, ma c'è una stanchezza così di clima, un po' le solite facce. Fassino è una persona di cui nessuno può dubitare dell'onestà, è sicuramente un bravissimo amministratore, è una persona competente, grandissimo, ma, come dire, rappresenta un po' il passato. La faccia di Chiara Appendino, che ha 32 anni, che va al seggio con la sua bambina nel passeggino, che esibisce con grande disinvoltura competenza, lingue, lei ha messo oggi o qualche altro giorno ha messo sul suo sito la lettera del suo insegnante di tedesco al liceo Gioberti, che diceva: voterò per te perché ricordo quanto eri brava di tedesco, e chi è bravo di tedesco non può che essere una persona, insomma, intelligente e affidabile. Ecco, io credo che al di là del giudizio sui programmi, che poi, come sappiamo, pochissimi leggono, pochissimi confrontano, io credo che il vero confronto sarà quest'idea qui. E io sono convinto che questa analisi Martinetti, che condivido, sia in realtà il criterio vero su cui seguire le elezioni di Torino. Vedremo come va. Grazie e buon lavoro a Cesare Martinetti. Noi ci sentiamo tra un minuto. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori, in questo inizio di settimana senza Alessandro Milan, che è in vacanza per qualche giorno. Spero di non farlo rimpiangere troppo. È chiaro che la trasmissione ci perde, perché in due siamo appunto 38 Luen da solo, sai, non esplode, per così dire. Però detto questo, i temi su cui vi ho chiamato per darvi la possibilità di darci la vostra opinione sono quelli: allora, visto le immagini delle europee, Regno Unito e Russia non avrebbero sbattuti fuori per far capire una volta per tutte che le nazionali si devono porre questo problema anche sugli hooligans come i club? E poi, ma è vero o è falso che Orlando, la strage di Orlando, vi colpisce, ci colpisce? Beh no, però l'impressione è questa, dai social italiani molto meno che quella del Bataclan. Sentiamo come la sente su questi due problemi un po' di voi. Ecco, cominciamo con Federico da Milano. Federico, prego. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dare la mia opinione sul, diciamo, sulla percezione sui social che c'è stata della strage, quella di Orlando. Condivido la sua impressione, nel senso che dopo il Bataclan c'è stato un passo psicologico emotivo più che altro molto, molto più marcato. In questo caso forse... Secondo lei come mai? Secondo lei come mai? Ma allora, in America leggevo... rivista che in pratica ce n'è una al giorno di stragi così, questa è più grande delle altre, ma sostanzialmente ce n'è una al giorno. E poi dopo, soprattutto, quando si commenta qualcosa sui social ci si schiera, e schierarsi a favore di una fazione, diciamo così, gay, oppure di immigrato. Quindi anche secondo lei la componente gay pesa. Naturalmente, Federico, sì, le uccisioni per armi da fuoco, tra l'altro il libero accesso alle armi da fuoco in molti stati americani e la maniera in cui i democratici leggono negli Stati Uniti in campagna delle primarie la vicenda, le stragi sono abbastanza frequenti, però qua stiamo parlando di 50 e oltre vittime, e questa è una cosa eclatante. Però anche secondo Federico conta il fatto che A, avviene in America, B, c'è la questione gay. Vediamo invece sugli europei come la pensate. Giuseppe dalla provincia di Piacenza, che dice Giuseppe? Sì, ciao Oscar, io non solo ti davo ragione sostenendo che la UEFA dovrebbe procedere nell'espulsione, non solo minacciare come si fa di solito, ma io tutti quei signori lì li multerei di almeno 5.000 euro più al risarcimento dei danni che hanno fatto, no? Perché la società deve fare cassa su quei coglioni lì, non metterci dentro dei soldi, capisci? Poi sono molto d'accordo, sì. Volevo chiederti una cosa, no? A proposito del ministro Boschi, secondo te è normale che un ministro, al di là dei partiti a cui appartiene, intervenga in quel modo in una campagna elettorale? Ti rispondo subito, la mia risposta è no, ma come è evidente questo governo è molto implicato nei ballottaggi. Io spiego anche a molti ascoltatori, Adriano e altri che mi hanno chiesto, ma se non vogliono i 5 Stelle l'Appennino di Torino il progetto Città della Salute, che male c'è se il governo toglie i soldi? No, attenzione. Come ho tentato di spiegarvi, i 5 Stelle dell'Appennino vogliono la versione di quel progetto che piaceva anche al PD fino a 4 anni fa, infatti piaceva a Chiamparino. Poi con Fassino il progetto si è espanso, è arrivato a 700 milioni con soldi pubblici e privati. Quando la Boschi dice se vince l'Appennino non ci sono 250 milioni, nega all'Appennino, se vince, il diritto di sposare la versione precedente dello stesso progetto che piaceva al PD. E anche per me questo è un errore intollerabile, perché è un'intromissione da parte del governo per influenzare il voto dei torinesi. Non è da parte mia scegliere un candidato o l'altro, ma è prendere atto come osservatore che il governo ha due pesi e due misure. E come, perdonate, l'annuncio che avete trovato su Repubblica sabato scorso, con l'annuncio della possibilità che in questa settimana il governo entra a piedi uniti nel ballottaggio con un decreto di sanatoria per le grandi città in cui si vota al ballottaggio per mezzo miliardo per lo sforamento del patto di stabilità da parte di Torino, Milano, Roma e Napoli, che ereditano le vecchie province. Allora, il governo, se vuole, ritiene, lo faccia, ma dopo il ballottaggio, o no? Questa è la mia opinione, quindi sentiamo ancora come la pensa Jacopo da Milano, ancora tornando invece alla terrificante strage di Orlando. Jacopo, prego. Buongiorno Giannino. La penso esattamente come lei, nel senso che secondo me quello che è successo in Francia ha posto l'attenzione sull'innocenza delle persone, cioè era nelle nostre menti qualcosa che non poteva accadere, mentre in America si pensa sempre che quello che è accaduto, oddio, si spera non possa accadere tutti i giorni, ma data la circolazione delle armi e tutto, può accadere, e quindi mentre in Francia uno dice rimane quasi senza parole, dando, cioè, dicendo oddio, povere persone innocenti. È vero, le persone che sono morte ad Orlando hanno lo stesso identico valore, ma dentro la mente lo si dice, c'è anche armi, ci dicono alcuni ascoltatori, una componente relativa al fatto appunto, cioè che avvenisse in Francia era più evidente, ci toccava più da vicino la mancanza di sicurezza, se oltre Atlantico invece ci tocca meno, molti di voi pensano di sì. Io penso semplicemente che abbiamo smarrito le ragioni di essere insieme in un Occidente. È chiaro che esistono differenze tra Europa e Stati Uniti, esistono diverse concezioni di come la legge, i diritti dell'individuo, però la verità è che non siamo tutti più divisi, come l'Europa è indebolitissima, tanto più le due rive dell'Atlantico. Ancora rapidissimamente Stefano da Roma su questo. Stefano, prego. Sì, buongiorno. No, volevo fare un'altra considerazione, sì, relativamente alla strage di Orlando. Sì. In effetti non è tanto il fatto che siano gay, il fatto che ha poca copertura mediatica o come solidarietà, ma per il fatto che sono americani, perché uno dei nuclei psicotici collettivi che sta girando in questo periodo è quello che in effetti c'è un grande anti-americanismo, anti-atlantismo di ritorno, per cui c'è una profonda antipatia. È una profonda antipatia e questo spiega la maggior freddezza, per così dire. E naturalmente io mi rendo conto, i temi sono tanti, sono diversi, però... Io sono rimasto sconvolto sia sabato vedendo i tifosi che si prendono a calci in faccia per terra. Tra l'altro vi voglio segnalare che oggi è un articolo secondo me molto buono per capire meglio il fenomeno degli hooligans russi all'estero e delle squadre di calcio. Si trova su Repubblica, siccome è uno dei migliori articoli, segnalo tra gli altri articoli su temi diversi del giorno, il Fatto Quotidiano ha un bel articolo sul partito delle Olimpiadi che è diventato il canale decisivo, lo vedremo per il ballottaggio a Roma, è divertente anche il titolo perché per definire il partito delle Olimpiadi 2024 a Roma il titolo del Fatto Quotidiano è Lotti, Totti e Letta, che sembra uno scilinguagnolo ma sono tre degli esponenti fondamentali per le Olimpiadi a Roma. E invece sulla Stampa vi segnalo un articolo che dà l'idea delle difficoltà economiche dell'Italia, l'ha scritto Grazia Longo e descrive questo concorso che è stato bandito per 320 posti di vice ispettore alla polizia, ci sono 127.804 in fila per fare il concorso, 127.000 in fila per il concorso per 320 posti, ecco, questo la dice lunga su come stiamo messi, con tutto il rispetto. Allora andiamo a un altro ospite, perché oggi lo sapete, i giornali hanno dato un grande eco a questo, stasera c'è l'Italia che gioca appunto agli europei con il Belgio e in concomitanza un sindacato UGL ha pensato bene, con tutti i problemi che ha l'ATAC, di indire uno sciopero esattamente in concomitanza. I primi giorni sono fioccate le irrisioni, Roma con tutti i problemi che ha c'è ancora sindacati di questo tipo, poi alcuni hanno detto vabbè, tanto sarebbero state vuote comunque le vetture dell'ATAC, e abbiamo con noi, non per parlare di questo, anche se lo spunto è ovviamente questo, chi si trova a dover, per responsabilità aziendali, appunto maneggiare questo che è uno dei problemi più esplosivi per il ballottaggio a Roma, cioè per l'importanza che ha questa municipalizzata che, ohimè, mi spiace dirlo, Mediobanca ci segnala da anni, insieme all'AMA sempre di Roma, come ai vertici della grande municipalizzata italiana più scassata, se mi passa l'aggettivo, e con noi appunto l'incolpevole, per così dire, però nei guai fino al collo perché deve trovare risposte, direttore generale dell'ATA, che io per questo ringrazio. Grazie Marco Rettighieri, buongiorno a lei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dopo aver sottolineato che lei i problemi li deve risolvere, non è che li ha creati, perché non si creano da un giorno all'altro problemi di inefficienza di quel tipo. Ricordo, me lo hanno già sentito dire molte volte gli ascoltatori di Radio 24, che noi facciamo riferimento spesso a ricerche come quella dell'Istituto Bruno Leoni, che ricordano come in questi ultimi 4 anni, col fermi al bilancio 2014, ai 4 miliardi di contributi pubblici di varia fonte diversa, eccetera, se ne aggiunge praticamente uno di altro deficit, quindi 5 miliardi bruciati. Detto tutto questo, parco circolante arretrato, problemi di gestione del personale numerosissimo, però io le vorrei chiedere in questi minuti, uno come lei, cioè un vertice amministrativo che si trova in queste condizioni, tra un sindaco e l'altro, nel frattempo va avanti col suo programma e pensa come che questo programma che lei sta perseguendo possa trovare una soluzione. Molti pensano che all'interno del bilancio così pregiudicato e del perimetro di ATAC attuale una risposta ordinaria, sia pur con gente motivata come lei, non si può trovare, che bisogna farla a pezzi, cederla ai privati. Lei che dice? Dunque, farla a pezzi mi sembrerebbe un peccato e non so chi se la possa comprare in queste condizioni, onestamente parlando. Diciamo che ATAC ha delle grandissime potenzialità, forse mal espresse. Io sottolineo sempre che ci sono delle maestranze eccezionali all'interno, perché se gli autobus, forse anche se non al 100%, ma viaggiano così come le metro, e questo grazie all'internalizzazione che abbiamo fatto da quando sono arrivato. Abbiamo letto la settimana scorsa che 18 dei 36 convogli della metro erano fermi perché avevano sbagliato il lubrificante sulla ruota. Non è solo quello lì, infatti io mi sono molto adirato quando ho letto e sentito queste informazioni, perché in realtà non era così. Diciamo che ci sono una serie di concause che hanno fatto sì che la metro venisse fortemente ridotta nel numero dei convogli. Stiamo ponendo rimedio, tant'è che in questi giorni, poi eccetto quella giornata, siamo risaliti a 22 convogli giornalieri dei 26 previsti. Di questo ci scusiamo con i nostri utenti, ovviamente mi scuso io in prima persona. Ma stiamo mettendo mano proprio a questa situazione e reinternalizzando tutte le nostre attività manutentive. È ovvio che con un parco mezzi di 10 anni e mezzo per la superficie e di svariati decenni per il metro ferro, è ovvio che se non arrivano dei fondi nuovi per acquistare i mezzi, sono guai. Diventa sempre più difficile. Senta, ma a chi osserva che facendo le gare come fa Roma TPL la vettura chilometro costa 4,54 euro, mentre invece senza fare le gare con il servizio ATAC costa 7,33, dati di 2 anni fa peraltro, e quindi bisogna fare più gare, che gare sarebbe la vera cura? Lei che dice? No, allora guardi, il costo chilometro per noi è poco superiore ai 5 euro. Quindi, poi è medio, perché ci sono alcuni servizi che costano decisamente meno. Il fatto è che noi abbiamo decisamente necessità di avere mezzi nuovi. È ovvio che durante l'estate i motori sono sollecitati, ed è ovvio, lo è anche per le nostre autovetture private, perché accendiamo il condizionamento, perché le temperature aumentano e di conseguenza i nostri mezzi sono più sollecitati. Però un conto è sollecitare un mezzo che ha 1 anno di vita, 2 anni di vita, 3 anni di vita, un conto è sollecitare un motore che ha 10, 15 anni di vita. Quindi io ribadisco sempre, lo ribadirò anche al futuro sindaco, la necessità di implementare il nostro parco mezzi, come già stiamo facendo peraltro grazie a fondi pervenutici, con dei mezzi nuovi. È ovvio che le nostre maestranze si adoperino per la salvaguardia di questi mezzi e quindi dei nostri utenti. Dei disservizi ovviamente ci sono, e sono io il primo a riconoscerli, a cui stiamo cercando nei nostri limiti di mettere mano. Senta, uno dei temi su cui il Messaggero, ma anche gli altri quotidiani, è diventato uno sport nazionale, è quello di sottolineare la frequenza, il venerdì, inizio della fine settimana, degli scioperi nel trasporto pubblico a Roma. La cultura aziendale, da questo punto di vista, oltre che naturalmente quello che succede nei rapporti con il comune per quello che riguarda i mezzi, eccetera, eccetera, ma la cultura aziendale può cambiare in un'azienda in cui la conflittualità è così disastrosamente elevata storicamente? Ma più che, se mi permette dottore, più che può cambiare, deve cambiare. Ecco. Deve necessariamente cambiare. Lei guardi il panorama mondiale, europeo, di paesi con cui l'Italia si può e si deve confrontare. Si parla spesso di sciopero virtuale, per esempio, in molte città europee. O di danni nei confronti dell'impresa, ma non dell'azienda, ma non dell'utente, dei cittadini, milioni e milioni, insomma, di romani e cittadini, turisti. Ogni volta andare sui giornali del mondo per cose come quella di questa sera non è proprio, No, assolutamente. Tant'è che con la commissione di garanzia sugli scioperi, sul diritto allo sciopero, con cui abbiamo frequenti relazioni insieme alle organizzazioni sindacali, speriamo. Stiamo proprio vedendo di arrivare ad un documento il più possibile condiviso. Speriamo, soprattutto io faccio appello ai sindacati, perché sai, documenti, però insomma bisogna cambiarla. Intanto grazie e buon lavoro a lei, quindi andiamo verso la chiusura della trasmissione. Ogni mattina, che cos'è questa roba? Si sdegnerà, ho capito. Cari ascoltatori, però noi vogliamo lanciare un messaggio a Alessandro Milan, questo è il punto, il messaggio a Alessandro Milan che oggi non è stato con noi, non c'è stato questa settimana, ma il messaggio della comunità di Attenti a Noi Due è questo. Non si trova più, ragazzi, buca. Volevo fare una sorpresa a Alessandro Milan, la facciamo domani. Torna sta casa, aspetta te. Comunque, continuate con Radio 24.